Ehi, ma quello è fumo. C'ha il rap, l'album. Lilba non va. Lilba non va. Lilba non va, non va. Lilba non va. Lilba non va. Questo territorio pugliese causa brutte sorprese ogni mese. Il problema non è vano, lo puoi notare sorvolando Taranto con l'aeroplano. Vedi fumo nero, vedi un intero, il suo nome è Ilba, diretto da una belva. Vedi diossina tossica, con gente alle spalle una storia drammatica. Qui non è virtuale, qui è reale, vige una legge sleale. Un morto qui equivale a 100 euro di risarcimento, senza prendere un provvedimento. Il tiranno causa sempre più danno, le autorità niente ci fanno. Non puoi fare nulla, loro sono superiori, superiori a sto cazzo. Hanno distrutto una terra piena di valori, spacciando le uova territoriali sane come quelle di Amadori. E se le mangi ti prendi un cancro e poi muori. Ora vige povertà, il turismo è scarsità e la gente per strada fa la carità. Non è bello a dirsi, ma nemmeno a vedersi, né tantomeno a sentirsi. Questo pezzo è registrato per confermare il degrado assoluto. Ma ora basta, non posso rimanere muto, vorrei sprecare un po' di fiato. Contro chi vuoi sprecare fiato, man? Contro chi? Vorrei sprecare questo fiato per far svegliare questo stato. Non apre gli occhi sulla realtà, senza mostrare solidarietà verso chi ha perso la sua dolce metà, verso chi ha perso un papà o chi ha perso il suo caro in un padiglione qua e là. I pesci del golfo mi stanno parlando e mi stanno dicendo che l'Ilba li sta ammazzando. Le alghe dicono che la nuova tinta nera la rivogliono verde com'era. Il mare si vuole ribellare, vuole che l'anno prossimo il tutto sia balneare, per vedere i bambini felici nuotare senza che si devono intossicare. Forse i signori dell'Ilba non sanno cosa vuol dire amare, buttano la loro merda come se fosse spazzatura, inquinando sempre di più madre natura, lasciando una schifezza alla gioventù futura. Quindi chiama l'Ilba e canta con me. Ilba non va, l'Ilba non va, l'Ilba non va, non va. L'Ilba non va e l'Ilba non va, chiudila e farai di Taranto patrimonio dell'umanità. Perché l'Ilba non va, man, l'Ilba non va veramente. Stabilimento Ilba, come posso esserle utile? Chiudendola. Eh? Ciupa.